Pronto, ciao. Ciao, Matteo, perdonami per l'attesa, ma siamo qua. Figurati. Raccontami un po'. La seconda parte del tuo racconto mi si calza proprio a pennello. Mario, lo sento, anche un pochettino dal tono di voce abbacchiato, Mario. Sì, perché no, il fatto è successo un po' di tempo fa, però anch'io ero di base, sono abbastanza geloso. Sì. Un po' di tempo fa io vedevo questa persona parecchio simpatica, estroversa. Io sono invece... Tu sei un po' chiuso, Mario. Un po' introverso. Un po' si sente. Ma che cosa fai nella vita, Mario? Perdonami. Tecnico, un po' così, giro un po' il mondo riparando. Come un po'? Mario, ti prego, guarda, mi stai commuovendo, stai su, stai un po' più su. No, è che ripensando, adesso sono molto più tranquillo, insomma, si parla del passato, però ripensandoci è stato un colpo piuttosto duro, perché, diciamo... il mio fatto, diciamo, poi si è concluso con il tradimento, quindi anche se poi l'abbiamo superato, quindi ci avevi ragione tu, Mario, tutto sommato. No, in realtà no, perché io sospettavo di questa persona parecchio estroversa, che si esponeva, certo, giocavano, scherzavano, li vedevo insieme, ero geloso un po' di questo suo modo di fare, di questo rapporto che avevano. E poi invece era il collega accanto. No, Mario. Mi fregato, no, aspetta un secondo, Mario. Cioè, tu avevi centrato un target che era sbagliato. Esatto. Era quello non era quello estroverso. Com'era l'altro, Mario? Tipo te. Sempre estroverso. Sempre estroverso, però più forse più maturato, più... Mario, senti, tu ci stai ancora con questa persona? Sì. Ah, perfetto, sì. Ok, tutto a posto.